per una mezz'ora, per tre quarti d'ora, tempo che durerà la seduta, noi cerchiamo di aiutare, senza far violenza sulla nostra mente, ma con gentilezza. Cerchiamo di aiutare la nostra mente a mantenere fissa l'attenzione sulla fisicità del respiro che entra e che esce. È fisico il respiro. Probabilmente non è soltanto una realtà fisica, ma l'aspetto fisico è il primo che si lascia percepire, intravedere con chiarezza da noi. E possiamo percepire il respiro che entra, che esce, perché prima di tutto c'è il tocco, lo sentiamo subito quando inspiriamo il tocco all'inizio del setto nasale, sentiamo il tocco lungo le pareti interne del setto nasale, il respiro che sfiora le pareti interne del setto nasale. C'è anche una temperatura, il fresco quando l'aria entra. Poi lo possiamo sentire a livello dei torace addome, quando entra nei polmoni, l'espansione del torace addome, un leggero innalzamento delle spalle. Di nuovo lo possiamo sentire molto bene quando preme sul muscolo diaframmatico, spingendolo verso il basso. Ciò che sentiamo sono soprattutto i movimenti indotti, non tanto il muscolo diaframmatico e neppure la spinta dell'inspiro che schiaccia verso il basso il muscolo diaframmatico, però i movimenti a livello dello stomaco, bocca dello stomaco, ventre, intestini, bacino, lungo tutta la spina dorsale, e soprattutto in questo momento che la spina dorsale tende continuamente ad allinearsi, a salire verticale sul proprio asse. E poi c'è una brevissima pausa, inizia la fase dell'espiro e abbiamo di nuovo gli stessi movimenti, solo che vanno in direzione opposta, invece di avere il raddrizzamento abbiamo un leggero cedimento a livello della spina dorsale, delle spalle, i movimenti a livello della ventre, bacino, zona dello stomaco sono già di contrazione per spingere fuori il respiro o permettere al respiro di uscire. Altrettanto a livello del torace addome, quando passa lungo le pareti interne del setto nasale, possiamo renderci conto che l'aria è diventata calda. E allora possiamo sentire moltissime altre cose, ma la preoccupazione non deve essere quella di arrivare a sentire tutto, di sentire chissà che cosa, perché la preoccupazione nostra è di aiutare la mente con gentilezza a rimanere raccolta sul respiro, ascoltare il respiro, in contatto col respiro. Può darsi che il respiro durante una seduta ci dica delle cose splendide e può darsi che non ci dica niente di più di quello che riusciamo a percepire, un po' di fresco, un po' di caldo, un tocco, un movimento, e dopo 5 minuti può dire, adesso potrei andare verso qualcosa di più interessante. E invece rimanete per tutto il tempo raccolti sul respiro, con totale disponibilità interiore, con molta serenità e disinvoltura. Perché è così che educhiamo la mente a rimanere in contatto con una realtà, non solo quando questa realtà ci gratifica, ma comunque perché è una realtà che merita il nostro ascolto, la nostra presenza. Anzi, può addirittura essere una realtà fastidiosa e c'è un motivo in più per offrirle pienezza di ascolto, se vogliamo capirla. Quindi è una pratica estremamente semplice, ma di estrema efficacia per quanto riguarda l'educazione all'arte dell'essere presenti, dell'essere in ascolto. La chiamiamo meditazione di consapevolezza, viene chiamata anche meditazione di educazione della mente alla presenza mentale, alla presenza nel presente, alla consapevolezza non giudicante, accogliente, al religioso ascolto della realtà. Quando tenete presente questo, capite perché facciamo questo lavoro e quando avete capito perché lo facciamo, riuscite a farlo anche se sopraggiungono a un certo punto delle forti resistenze, alle volte da parte del corpo, altre volte da parte della mente, altre volte da parte di tutto il vostro essere. E voi perseverate tranquillamente nella pratica, lasciando che queste reazioni di rifiuto si sciolgano col tempo. Ed è così che impariamo ad essere presenti alle realtà della vita con un atteggiamento meno compulsivo, automatico soltanto, ma con piena consapevolezza e con piena accoglienza. E tutta l'arte del vivere dipende fondamentalmente da questa capacità di stare interamente con le cose senza lasciarci condizionare dai nostri gusti personalistici. Devo dire egoici, incapaci di aprirci al mondo che è sempre diverso da come noi lo vorremmo, con assoluta disponibilità e serenità interiore, pieni di gratitudine proprio perché è diverso da come noi lo vorremmo, per fortuna diverso da come noi lo vorremmo, e dove c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Quindi andate verso il respiro, quando vi è raggiunto il momento, aiutate la vostra mente a riposarsi nell'ascolto del respiro. Ripeto, anche se sentite pochissimo, in certi momenti magari sentirete un po' di più quello che sta succedendo all'inizio del setto nasale, il fresco, il tocco, altri momenti magari quello che succede lungo le pareti interne del setto nasale, altre volte sentite di più magari a livello del torace, l'espansione, la contrazione, in altri momenti sentirete ciò che succede attorno al muscolo diaframmatico. La cosa importante è che siate sempre in contatto con qualche sensazione, percezione legata al processo della respirazione, dell'aria che entra, dell'aria che esce. E quando vi capita di perdere il contatto con la fisicità del respiro, lasciate che appena diventate consapevoli, la mente ritorni, aiutate la mente con gentilezza a ritornare verso il respiro e a raccogliersi sul respiro, sulla percezione del respiro. Anche se le distrazioni fossero moltissime, non scoraggiatevi, continuate a fare questo lavoro con molta naturalezza e con molta disinvoltura, senza nessun giudizio negativo per quanto riguarda l'esperienza degli insuccessi. Se fosse una cosa semplice, scontata, stare interamente col respiro, non avremmo bisogno di esercitarci. Ci esercitiamo perché è sempre per noi esseri umani difficilissimo stare interamente e disponibilmente, non solo col respiro, ma con qualsiasi altra realtà della vita. E quindi dobbiamo educare la nostra mente a questa attitudine. Controlliamo la posizione seduta, ad essere comodi, il più comodi possibile, con la spina dorsale preferibilmente eretta, allineando l'asse spina dorsale collo testa. Porta uno stato di benessere, di armonia, che ci fa sentire aperti e svegli, presenti nel momento presente in ciò che stiamo facendo. Gli occhi sono socchiusi,